piccola impresa. Idee anticrisi di Anna Marino. Benvenuti a Voci di Piccola Impresa. Continuiamo con il ciclo Buone Pratiche. Oggi ci occupiamo del cibo, di come il Made in Italy può essere portato nel mondo rispettando i valori, non solo quelli di una sana abitudine alimentare e delle qualità italiane, ma anche le persone e il loro lavoro. Le buone pratiche di oggi sono riuscite a far quadrare questo cerchio. È già stato soprannominato l'Italy dei salumi, facendo il confronto con la catena alimentare di punti vendita fondata 10 anni fa ad Alba da Oscar Farinetti, soprattutto perché anche Perimetro segue la strada finora vincente del Good Food District. Ma accanto a questo, a fare da coach, c'è niente meno che un grande del team building come Giampaolo Montali, già allenatore dell'Italia di volley, che tira le fila di una squadra di origine bresciana, una terra conosciuta più per le ferriere che per la sua vocazione enogastronomica. Alberto Volpi, consigliere delegato dell'omonima realtà, insieme a Daniele Poletti della parmigiana All Food e a Mauro Esposto della Golden Food di Roè. La sfida è proporre i migliori sapori delle in un format che lega l'investimento industriale alla valorizzazione delle risorse umane. E sì, una catena di locali che ha un obiettivo di 10 negozi in 10 piazze europee in 3 anni, ma vuole raggiungere anche il break-even point fissato a 20 milioni di euro, però uno è già stato investito in formazione. Puntare sulle human resource non è scontato in tempi di spending review, perché il vero anello debole del settore, dicono in azienda, ma vale per tutti, finora è stato proprio il personale, poco professionalizzato e soggetto a un eccessivo turnover. Si punta sui ragazzi, giovani dai 18 ai 30, disposti soprattutto a sottoscrivere la carta dei valori etici. Una buona pratica per una buona squadra, per un buon cibo, come racconta con gusto il coach Giampaolo Montali, amministratore delegato di Perimetro. L'idea di Perimetro è partita da 3 imprenditori, 2 di Brescia e 1 di Cremona, che sono i titolari delle 6 grandi aziende che sono alle spalle di Perimetro. Il mio ingresso in Perimetro avviene quando all'inizio di questo progetto mi chiamano per allestire quella che è la gestione delle risorse umane e come allestire il progetto Perimetro per quello che riguardava il personale e le eccellenze da mettere nel progetto Parma, perché io sono parmigiano e poi sono docente all'Alta Bocconi, sono docente alla vostra Business School del Sole 24 Ore del Master di Roma. A parte la mia prima vita da coach, da allenatore, da manager sportivo, mi sono sempre occupato di gestione e formazione delle persone. Il vantaggio di Perimetro è che ha la filiera cortissima, perché i 3 imprenditori che sono dietro, che sono i proprietari di grandi gruppi industriali del settore, partono dal macello, che è il macello Padania di Crema, fino ad arrivare agli altri 5 aziende che sono All Food, Golden Food, Volpi Salumi. Quindi c'è tutto dietro una filiera che viene da questo mondo e di aziende che lavorano nel territorio parmigiano. Ecco, già viene l'acquolina in bocca solo a pensare ai prodotti che vengono esposti. Voi avete deciso di focalizzarvi su un territorio, cioè di non fare inventario dei prodotti italiani, ma dei prodotti di zona. Quale? Le 2 principali finalità di Perimetro sono quelle di valorizzare quelle che l'eccellenza dei prodotti della nostra terra, cioè dell'area parmigiana. Noi parmense, anzi meglio dire, perché ci chiamiamo Perimetro perché è questa idea di questa zona ristretta da cui andiamo a recepire quelle che sono le eccellenze del territorio. Le nostre referenze, i nostri menù sono poche cose, non abbiamo tante cose, ma sono tutte cose che riguardano il territorio parmigiano e la tradizione culinaria di questa città. Una specie di Italy dedicata appunto al parmense. Che cosa avete messo in piedi per renderla visibile? Anche se il mio amico Farinetti non ci deve vedere come antagonisti, perché noi siamo talmente piccoli che non potremo mai dare fastidio a Italy, però è una sorta di piccola Italy, però solo sul territorio della nostra città. Qui sono ristoranti, tra l'altro fatti con design di altissimo livello, molto minimal, tutto materiale italiano, dagli abbigliamenti dei ragazzi, ai tessuti, alle tovaglie, al legno che noi importiamo, c'è tutto un made in Italy di altissimo livello, altissimo profilo, e tutto quanto fatto esattamente con lo stesso concerto con cui noi andiamo a lavorare sui prodotti, cioè il certo, top dell'eccellenza. Made in Italy, made in Parma, made in Brescia, made in Milano, ma comunque in ogni caso è necessario dare una cifra. In questo momento l'idea anticrisi è quella di seguire anche una tendenza del mercato, una domanda che c'è, quindi è importante anche andare dove ci sono i mercati, e questa è l'idea per superare le difficoltà economiche. Voi però vi siete fatti aiutare da qualcuno o avete messo capitali vostri? No, solo capitali nostri, le 3 aziende del gruppo che sostengono perimetro, assolutamente autofinanziati, ma noi crediamo che la situazione anticrisi dipenda anche dal fatto, da quella che è la seconda finalità di perimetro, di affidare la vendita della nostra qualità, delle nostre referenze a dei giovani assunti a tempo indeterminato. Noi già facevamo questa cosa un anno fa, quando abbiamo cominciato a aprire, un anno e mezzo fa, prima ancora che entrasse in vigore questa legge. Noi assumiamo ragazzi giovani dai 20 ai 30 anni a tempo indeterminato, che parlino le lingue, perché poi il progetto di sviluppo sarà quello di andare all'estero. Ma la cosa caratteristica e particolare è che noi, dopo un casting di centinaia e centinaia di persone, teniamo questi giovani già assunti a tempo indeterminato un mese a Parma, sul territorio, a fargli formazione 24 ore al giorno su cosa vuol dire andare a vendere il quello che è il parmigiano reggiano, cos'è un prosciutto, cos'è un culatello. Non solo vi fa onore, ma è anche fa parte delle buone pratiche vincenti, perché in realtà il mercato si trova anche quando si mantiene quel tipo di qualità e di responsabilità e di attenzione al cliente, che è necessaria poi per avere un ritorno. Infatti il vostro modello di business qual è? Guarda, noi la nostra idea è quella di fare un business sostenibile e che alla fine dell'anno coinvolga soprattutto anche i nostri stessi dipendenti. Vi faccio l'esempio: in questo momento, nel primo anno e mezzo, logicamente non siamo ancora arrivati al break even, contiamo di arrivarci nell'arco di un paio di anni, ma dal momento in cui noi cominceremo a guadagnare e avere dei profitti, il 30% degli utili del vario gruppo sarà da dividere tra i nostri dipendenti. Quindi i nostri ragazzi hanno anche questo obiettivo individuale, perché io ho voluto soprattutto lavorare sulla fidelizzazione delle persone che lavorano con noi, perché il campo della ristorazione è un campo dove c'è un grande elevatissimo turnover. Quindi legandoli con un rapporto di tempo indeterminato, lavorando sulla loro formazione, ma soprattutto coinvolgendoli anche nella redditività finale dei nostri ristoranti, vorrei proprio che il nostro personale fosse assolutamente fidelizzato sul progetto di perimetro. Ecco, i vostri clienti chi sono? Da che cosa guadagnate? E noi abbiamo dei margini di contribuzione che riteniamo equi e idonei, che vanno intorno al 60-70% dei singoli prodotti, e per noi sono più che sufficienti per garantire la sostenibilità dei nostri ristoranti, ma soprattutto il giusto guadagno, insomma. Per fare l'esempio, noi vendiamo un piatto di culatello Zibello a 9,50 € in carta, quando meno di 14-15 € non trovi nessun ristorante. Puntare in alto alla qualità italiana e globale, senza dimenticare la formazione a 360 gradi, non solo del venditore, ma anche del cliente, perché sappia gestire bene il proprio portafoglio e in tempi di crisi non tagli i consumi guardando solo al prezzo. Fare cultura in azienda, cioè aiutare il venditore a conoscere perfettamente la selezione Cuzziol Grandi Vini. È quello che si fa nell'azienda come buona prassi, per essere in grado di trasmettere questa conoscenza al cliente e al suo personale. Non solo per scegliere le etichette giuste, ma perché così crescono i vari territori nazionali e internazionali, le specificità dei vitigni, le peculiarità delle varie denominazioni, e si cerca di portare oltre confine quel metodo di vendita orientato ai valori che già in Italia si fa da tempo. Come spiega Luca Cuzziol, imprenditore, amministratore delegato di Cuzziol Grandi Vini, azienda di distribuzione di alta gamma creata 60 anni fa da Renzo Cuzziol e da sua moglie, diventata con il tempo una società per azioni guidata saldamente dai tre fratelli Cuzziol, Giuseppe, Maria Grazia e Luca, che spiega appunto la ricetta italiana che viaggia nel mondo. Tre punti semplici: il servizio, la consulenza e la profondità. Il primo è doveroso, ma non è sempre scontato, e la profondità è il voler portare a termine i progetti che si iniziano. Questa è la nostra ricetta anticrisi. Questi tre punti in che idea si sono concretizzati? Una selezione di vini, soprattutto esteri, e in parte italiani, che avessero delle radici profonde, che avessero qualcosa da dire. Cioè, l'idea di vendere un terroir da un lato, che è una cosa, se si vuole, abbastanza semplice al momento, ma di vendere anche il produttore che sta dietro, con qualcosa che fosse sicuramente con delle radici ben piantate e anche facilmente raccontabili, trasmissibili. Cosa guadagnate? Qual è il vostro modello di business? I numeri sono ancora piccoli, perché il settore, come le dicevo prima, è piccolo, essendo un settore appunto di qualche centinaia di milioni di euro. L'azienda l'anno scorso ha chiuso a 16 milioni e 300 mila euro, crescendo del 13,70 sull'anno prima e del 25 sull'anno prima, quindi la nostra è un'azienda che quando è nata con il vino nel 2005 in Italia pesava poco più di un paio di milioni di euro e appunto in poco più di 10 anni l'abbiamo consolidata a 16,3 milioni. Quest'anno è l'anno dell'Expo. L'Expo sicuramente farà da traino e darà un grande impulso, sicuramente l'Expo è la punta di diamante. E ora gustate le vostre idee, buone per tutti. Se volete ascoltare le precedenti storie o scriverci le vostre, Voci di Piccole Imprese su Twitter con l'account @vocipmiradio24, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa, il blog e il download sono su www.radio24.it. Un saluto da Anna Marino. Avete ascoltato Voci d'Impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.